Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentornati e bentrovati, Luca Tremolada al microfono. Oggi innovazione montagna, tecnologia, tradotto, ramponi, picozze, moschettoni, giacche a vento, scarpe e scarponi, vero Sandro? Sì, il divertimento, l'outdoor, c'è chi si diverte a innovare, certo. E con l'innovazione fa divertire. Ecco, noi con Sandro Mangiaterra, che ha appena parlato, che è una penna innovativa e scrittore di innovazione per Nova, andiamo un po' a vedere dentro i laboratori come nascono le innovazioni per la montagna. Per cui, insomma, popolo di alpinisti e di alpiniste, facciamo maschi e femmine, facciamo... Pari. Sì, di semplici appassionati, cioè non sono cose soltanto per iper specialisti, per ecco. I malaisti, come si dice. Ecco, chiamate all'824-0024 per chiedere che cosa, quale innovazione, se volete il sacco a pelo più leggero, se volete la picozza più dura, se le scarpe più morbide, lo scarpone che strano. Che non fa male. Qui avremo tutte le risposte e le avremo in particolare. Da Adriano Zuccala, che è qui con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. General manager della Vibran, una storia interessantissima sia personale che della Vibran che andremo a raccontare, ma prima una scheda. Gli esperti dicono che quello delle calzature è un settore maturo. Al massimo è possibile migliorare i materiali, aumentare il comfort. Tengono i marchi del lusso, le griff della moda, ma di innovazioni vere non se ne parla. Invece, alla Vibram di Albizzate, provincia di Varese, 65 milioni di fatturato, hanno rivoluzionato il concetto stesso della scarpa. Hanno inventato le Five Fingers, le scarpe con le 5 dita. Potremmo definirle dei guanti da piede. Ora Adriano Zuccala, il direttore generale, ha deciso di esportarle in tutto il mondo. Di più, ha lanciato la sfida ai colossi delle calzature sportive del tempo libero come Nike e Adidas. Negli Stati Uniti le Five Fingers sono diventate persino un fenomeno di filosofia di vita. Si cammina e si corre a diretto contatto con la natura. Allora Zuccala, la storia è strana, perché voi avete inventato sostanzialmente il carro armato, poi raccontiamo anche qual è la storia, per cui insomma un battistrada potente, no Sandro? 3 centimetri di più? Dipende dal tipo di uso che si va a fare. 3 centimetri di suola che isola completamente dal terreno, ovviamente per proteggere dalla pioggia, dal fango, insomma la suola carro armato è... Vibram, storicamente è Vibram, molti l'hanno copiata, però nasce lì, ad Albizzate, in provincia di Varese. Adesso, boom, un cambiamento di 180 gradi, basta suola, facciamo le scarpe che calzano come un guanto. A proposito, Zuccala, lei ce l'ha ai piedi, calzano proprio come un guanto? Assolutamente sì, sono molto comode. Oggettivamente ti senti come fossi a piedi nudi, però sei protetto. Vi ammetto che sono venuto qua con la moto e l'ho usata anche in moto, non so se è permessissimo, ma funziona. Ecco, fanno un po' il piedone, noi le abbiamo viste, fanno un po' il piedone lago. Però perché questo ritorno alla natura? Nel senso, cioè, a un certo punto avete preso le distanze, 3 cm che è armato, poi si ritorna al contatto. È questa la strada da seguire? Il concetto è corretto. Da una parte diciamo siamo ancora solisti, siamo i solisti del mondo, nel senso siamo l'unica società che è conosciuta al mondo per le suole e abbiamo suole di alta performance, come lei ha detto, e conseguentemente cosa diamo? Diamo uno strumento tecnico per proteggere il piede. Dall'altra l'opposto, quindi è interessante, siamo nel campo in cui invece il piede lo vogliamo che lavori nella sua completa funzionalità, che senta il terreno, che cammini come fosse a piedi nudi, ma è leggermente protetto, che poi è una suola vestita, queste Five Fingers. Allora Zuccala, però adesso ci deve spiegare come è nata l'idea di fare queste Five Fingers, queste scarpe con le 5 dita, e soprattutto come avete pensato che questa idea poteva diventare un prodotto E poi quando avete capito che questo poteva diventare un prodotto di successo che avrebbe conquistato i mercati internazionali? Abbiamo sentito un sacco di domande. Sì, sì. No, l'idea è come al solito, bisogna prima di tutto essere molto pronti all'innovazione, questo è fondamentale. E devo dire che in Vibram, soprattutto grazie ai proprietari della Vibram, tuttora una società italiana completamente e privata, hanno una grande attenzione all'innovazione. È il prodotto, è il centro di tutto nella società. Il proprietario della Vibram un giorno gli è stato presentato un giovane designer italiano della provincia di Bolzano, il quale per la sua tesi aveva deciso di disegnare, costruire un guanto per il piede, e lo voleva fare perché lui amava la montagna in maniera passionale e voleva andare in montagna sentendola sotto di sé. Quindi è un uomo altoatesino, diciamo, e quindi aveva le montagne attorno a sé. È andato in giro a cercare a portare questo concetto a diverse aziende, non tutti l'hanno seguito, bisogna essere pronti a capire la novità. Marco Bramani l'ha capita e ha cominciato a lavorarci in maniera parallela rispetto al nostro business normale nei nostri laboratori, fino a farne diventare un prodotto. E vi assicuro, non era banale, perché si partiva da un concetto, ma poi far diventare una cosa che è comoda, che va bene per tutti i piedi, teniamo conto che ogni piede è diverso, non è stato del tutto banale. Qui ci sono stati grossi studi tecnici di biomeccanica, di ingegneria del piede, per far sì che questa diventasse veramente Io in un primo momento pensavo che avesse copiato dal Giappone, perché sono stato in Giappone quest'estate, loro hanno le calze con le dita che sono divertentissime, nel senso che però danno una sensazione di fragilità assoluta. Per cui non nasce da un'osservazione, nasce da una persona che arriva in azienda e vi dà un'idea. Tra l'altro, nel 1935, leggo la vostra storia, Vitale Bramani, appassionato alpinista torinese, si trova, io la riassumo, però me la racconta lei un po' meglio, si trova in una tempesta, allora non c'erano le scarpe con il carro armato, viene alla Vibram e dà vita al carro armato. Per cui anche qui è una persona che ha un'idea, arriva nei vostri laboratori, nel vostro laboratorio nel 35 non so che cosa c'era. Infatti, no, diciamo meglio, Vitale Bramani, Vibram, è il fondatore della Vibram. Era un alpinista, è vero, era un accademico del CAI, portava spesso in giro le persone a fare delle escursioni. Nel settembre del 35 hanno fatto un'escursione in Valtellina, nella famosa parete della Rasica, famosa per gli alpinisti in Valtellina, e purtroppo in settembre sono stati presi dal maltempo e quindi si sono trovati in situazioni difficilissime. Addirittura hanno dovuto cercare di tornare indietro, alcuni non ce l'hanno fatta, hanno passato la notte nel ghiaccio, e a settembre, questo la dice lunga sul cambiamento climatico, sono morti assiderati. Tornato ovviamente scosso da questa esperienza, ha capito che il problema era nei materiali, nell'attrezzatura, nei vestiti, nelle scarpe che avevano. Ancora si usavano scarpe con le suole chiodati in cuoio, e quindi da lì ha cominciato a pensare a una scarpa chiodata ma più isolante, più forte, più comoda, e quindi il famoso carro armato. Marco da Alessandria, immagino, ci ha scritto, e ha una domanda che è perfetta: ma ci vogliono quindi anche le calze con 5 dita per le scarpe? No, assolutamente no. Si può fare nei due modi. Io in questo momento le indosso tranquillamente a piedi nudi, sono comode, si possono mettere. Abbiamo dei modelli più adatti agli estivi, alcuni modelli sono più adatti all'invernale, ma si possono indossare a piedi nudi. Può succedere, alcuni le usano con le calze a 5 dita che si trovano abbastanza facilmente ormai dappertutto, e soprattutto nell'ultimo trend che c'è nell'uso di queste scarpe per la corsa, usano anche la calza a 5 dita, ma non è obbligatoria. Però Zuccala, ritornando all'idea, le idee possono nascere anche davvero con l'illuminazione di una lampadina. Poi però non tutte le idee si trasformano in prodotti industriali e in prodotti industriali di successo. Voi quindi ci avete lavorato, avete studiato delle innovazioni vere con anche il Politecnico di Milano sui materiali per unire le prestazioni, la resistenza e il comfort. Cioè non è soltanto l'idea di metterci le dita, no? Assolutamente no. Mi dice un po' come l'innovazione tecnologica che c'è dietro. assolutamente. Cioè bisogna non confondere l'innovazione con la creatività, dove oggettivamente in Italia siamo maestri. L'innovazione invece è un qualcosa dove qualche volta sono più maestri i giapponesi, sono più maestri gli americani. Cioè ci vuole ovviamente una grande pazienza per far diventare un'idea, un disegno, in un vero prodotto. E qui il lavoro diventa un pochettino più grigio, un pochettino più meccanico, un pochettino più scientifico, un po' più ingegneristico. Questa capacità è molto importante, io la ritengo molto importante, ho esperienze di ricerca storica e so che se non si è capaci di portare dall'idea al prodotto industriale, il rischio è che magnifiche idee poi non si realizzino. Abbiamo fatto questo sforzo, sicuramente anche con l'apertura, che ripeto la proprietà ha in questo senso, verso le università, e lavoriamo con università in tutto il mondo, soprattutto nell'area della biomeccanica, dell'ingegneria del piede e cose di questo genere. Ecco. Un ascoltatore ci chiede: prodotte interamente in Italia? In realtà abbiamo prodotto in Italia e possiamo produrre in Italia, adesso abbiamo trasferito la produzione in un altro paese, in Cina. E abbiamo una telefonata, Franco dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Franco. Mi dica. Senta, volevo chiederle due cose. La prima, un tipo di scarpe adatte per il trekking. Sento una voce, un eco di ritorno. No, non c'è. Vada pure che qui sentiamo tutti benissimo. Ho capito. Allora, queste scarpe dovrebbero avere delle caratteristiche idonee sia per la pioggia che per il sole. Dovrebbero essere traspiranti e nello stesso tempo non dovrebbe entrare l'acqua. Di che materiali dovrebbero essere fatti? Io ho sentito la cordura, che è un materiale adatto. Mi può dire se la Vibram oppure altre case fanno scarpe? Grazie. E il costo su che importo si aggira. L'altra sì? Riguarda la... Quindi sono due le domande. Io... Prego? Sono due le domande, quindi. Prego. Le posso fare? Sennò assolutamente. Allora, l'altra è un tipo di dispositivo GPS che rileva una traccia di percorso per usarlo a piedi nei boschi e in montagna. Ah, interessante, cioè se è possibile rilevare, giustamente anche perché il satellite rileva la scarpa e uno non si perde, prego. Vabbè, nel primo caso lei sa che ecco, noi siamo molto esperti in suole, evidentemente, o in scarpe di questo tipo, e la nostra suola ovviamente sono impermeabili, soprattutto lei parla di trekking, noi siamo completamente ossessionati dal grip, e dal grip, cioè dal non scivolamento sul bagnato, e questa è una nostra caratteristica. Nei nostri laboratori siete tutti invitati, abbiamo moltissimi device per studiare questo aspetto, perché è molto importante. Se lei pensa che quante anche nell'ultima estate persone sono morte in montagna, noi ci sentiamo anche molto consapevoli dell'importanza della scarpa, sicurezza, della certo. Sicurezza, infatti Vibram è sicurezza, quindi dal punto di vista della scarpa la sicurezza è quasi più importante, no, dell'impermeabilità, nel senso che se lei non scivola, e le assicuro non è facile perché il ghiaccio, il bagnato di sassi, il bagnato delle cortecce è duro, e quindi stiamo studiando materiali nuovi, infatti mi stanno dicendo via SMS, sì, però il problema è il bagnato, cioè il problema delle suole di gomma è quello. Ecco, qui la ricerca a che punto è? La ricerca è la nostra priorità. Lo studio dello scivolamento della suola sul bagnato è la nostra priorità. Certamente la scarpa e la suola oggi non può fare miracoli. Se c'è un ghiaccio, ci sono condizioni particolari, alla fine si usano i ramponi, quelli di cui parleremo probabilmente più tardi. Ma stiamo cercando materiali sempre più sofisticati per dare il massimo del grip. Sul GPS? Sul GPS sicuramente io sono un po' meno esperto, so che si possono usare e si usano regolarmente qui nelle Alpi, e ci sono molte aziende che stanno fornendo strumenti di questo genere. Ma non è costoso? Credo che stiano, ho visto sul mercato ormai degli orologi con GPS che arrivano a prezzi intorno ai 150 euro. Penso che però possiamo anche rispondere alla domanda: quanto costano queste scarpe? Le scarpe sono dentro il mercato oppure no? Allora, oggi come oggi queste scarpe stanno avendo un boom incredibile, soprattutto in America. E diciamo che l'80% di queste scarpe oggi è venduto dai Five Fingers, è venduto in America. Il costo è intorno ai 90, 100, 110 euro. Dipende dal tipo di scarpa, siamo su questi livelli. Ecco, noi siamo in studio anche con Riccardo Pietrabista, prorettore del Politecnico di Milano per la sede di Lecco. Io volevo chiedere al professor Pietrabista, abbiamo sentito due storie di una persona che entra alla Vibran e ha un'idea. Noi ci immaginiamo invece questi laboratori carichi pieni di ingegneri che magari non sono neanche mai andati in montagna, di scienziati che elaborano nuove tecnologie. È una storia aziendale, per cui una storia mitologica, quella dell'inventore che arriva, porta un'idea, oppure di fatto è una branca dell'innovazione? Buongiorno, ma sicuramente l'innovazione non segue delle strade codificate o facilmente codificabili. Questa che abbiamo ascoltato è una storia emblematica, credo che il nostro paese sia ricco di queste esperienze nella moltitudine, soprattutto di piccole e medie imprese, in cui la conoscenza del problema stimola a trovare una soluzione. Però, come diceva giustamente Zuccala, non possiamo trascurare il fatto che una soluzione efficace e quindi che poi raggiunge il mercato con successo nasca semplicemente perché uno conosce il problema. Occorre la conoscenza delle possibili soluzioni e trovare soluzioni che siano a loro volta innovative. Quindi l'accesso alla conoscenza, alla conoscenza di frontiera, non è spesso la molla, ma è la soluzione. E quindi qui il rapporto con l'università è centrale, cioè si cerca da chi ce l'ha le conoscenze specifiche per risolvere i problemi industriali, è così? Ma credo che nei paesi che oggi stanno dettando un po' il passo su questi settori, il connubio ricerca scientifica, che è tipicamente pubblica, e sviluppo industriale, che è tipicamente privato, vanno a braccetto. Funziona, vanno, certo. A braccetto, per forza. È inevitabile. Senta, Zuccala, insomma, gli Stati Uniti mi dicono che al Central Park ci sono ormai due comunità che si guardano in cagnesco, quelli con le suole e quelli con le dita. È così, cioè sta diventando uno stile di vita addirittura. Avete innovato il concetto di scarpa? Cioè addirittura, cioè una guerra di religione. Una guerra di religione, mi dicono. Beh, è abbastanza vero. Tenete conto che questa scarpa è nata per questa capacità di dare questa sensazione di piede nudo e quindi di camminare outdoor. Cosa è successo? Che alcuni già correvano a piedi nudi, ma ovviamente non erano protetti. Hanno trovato in questa scarpa la soluzione ai loro problemi. E questa tribù di gente che corre con la Five Finger sta crescendo, in questi anni sta crescendo, tra l'altro alimentata da un libro importante che è nato negli Stati Uniti, che è fatto da un giornalista esperto in corsa e che è diventato un bestseller negli Stati Uniti. No, prego. Ecco, e quindi ciò ha veramente portato una diatriba fra chi sostiene che bisogna avere una scarpa con tutte le prestazioni che ti protegga, che ti dia grandissima... Aspirante... Esatto, e quindi ti dia protezione... Certo. E la scarpa in cui si sente invece la terra. Nova Lab 24. Bentornati Luca Tremolada e Sandro Mangiatera, stiamo parlando di innovazioni, piccozze, scarpe, cosa c'è dentro a questi prodotti più o meno tecnologici, e chiediamo agli ascoltatori che chiameranno all'824-0024 di suggerirci qualche innovazione. Insomma, vediamo di capire, siamo dentro nei laboratori, vediamo di capire cosa volete che si faccia che non sia ancora fatto. Ma ora torniamo a Vibram e cerchiamo di capire come farete a non farvi copiare le Zuccala, scarpe dai cinesi. Direttore generale della Vibram, che è qui in studio con noi. Zuccala, vi stanno copiando i cinesi? Voi avete brevettato, avete coperto, tutelato questa invenzione? Assolutamente, questa è una domanda pertinentissima. In effetti non ci sono soluzioni immediate, ma la cosa più importante è lavorare sui brevetti. E quindi noi l'invenzione del Five Finger è brevettata, come pure sono brevettati tutti i design di questo tipo di scarpa. È chiaro che il tentativo di imitazione c'è, però è anche vero che ormai la Cina non è più quel paese che un po' noi tutti ancora immaginiamo. Noi conosciamo molto bene la Cina e quindi ormai si stanno aprendo, voglio dimostrare al mondo che sono un paese quasi occidentale, che quindi non permettono più certe cose come una volta, e quindi stiamo trovando anche ampio, diciamo, aiuto in Cina per combattere queste falsificazioni. Ecco, Tiziano Miani dalla provincia di Vicenza dice: sì, va bene, belle le scarpe, ma la gomma la riusciamo a... che fine fa? Quanto dura? Si disperde nell'ambiente? Non si disperde? Sì. È una scoria sostanzialmente. No, direi, la gomma intanto è un prodotto molto naturale, anche perché noi usiamo moltissima gomma naturale, quindi stiamo parlando di un prodotto estremamente naturale. Siamo attentissimi all'aspetto dell'ecologia, abbiamo moltissimi studi in tal senso, stiamo studiando in particolare delle suole biodegradabili ed è uno dei vari progetti che abbiamo in corso. La gomma di per sé ci mette un po' di tempo, ma sicuramente viene assorbita dall'ambiente nel giro alcuni anni. Ah, però abbiamo in collegamento anche Antonio Codega, che oltre ad essere titolare della CAMP è anche responsabile del settore ricerca e sviluppo. Buongiorno. Buongiorno. Sentiamo una breve scheda su di lei. Non bisogna essere alpinisti provetti per capire che c'è una bella differenza tra il portarsi in spalla uno zaino da 5 kg oppure da 3. Così alla Camp di Premana, in provincia di Lecco, 18 milioni di fatturato e un marchio leader mondiale nelle attrezzature per l'alpinismo, la leggerezza è diventata un'autentica missione. Antonio Codega, erede di una famiglia che da 120 anni si dedica agli accessori per la montagna, nel centro ricerche, che ha allestito in azienda, studia i materiali più avanzati, tessuti leggerissimi, acciai speciali, fibre di vetro e al titanio. Ne è nata la linea Essential, una gamma completa di prodotti, dagli zaini alle giacche a vento ai sacchi a pelo, con prestazioni elevatissime e appunto un risparmio in termini di peso nell'ordine del 30-50%. È anche questione di sicurezza, e con quella non si scherza, sulla grigna come sull'Everest. Sulla grigna, Sandro. Perché appunto la caratteristica, una delle caratteristiche della CAMP è di essere in montagna, in Alta Valsassina, in provincia di Lecco, e da lì essere conosciuta in tutto il mondo, soprattutto tra gli addetti ai lavori, uno per tutti. È testimonial e un alpinista che veste e che adotta prodotti CAMP è Simone Moro, forse in questo momento il più grande alpinista, il più forte alpinista italiano, grande himalaista. Ma appunto in azienda, ecco, prima con Zuccala si parlava di sicurezza, ecco, un'altra azienda italiana che sulla sicurezza si sta dando ben da fare è proprio la CAMP di Premana. Codega, buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Allora, ci spiega questa equazione, alte prestazioni, leggerezza, comfort uguale ricerca sui materiali. Sì, diciamo che potrebbe sembrare un controsenso, ma in certi casi la leggerezza può anche essere sinonimo di sicurezza, vale a dire che a volte la difficoltà a raggiungere un obiettivo può essere anche data da un equipaggiamento non adatto che la persona si porta, per cui noi abbiamo studiato quello che in termini generali abbiamo chiamato così il nostro pensare light, pensare leggero, dei prodotti che pur avendo delle caratteristiche tecniche avanzate, quindi di protezione e di sicurezza, sono realizzati appunto con dei materiali particolarissimi che ne consentono una riduzione di peso. Questo vuol dire che l'alpinista è più veloce nelle sue performance, e più veloce vuol dire anche essere più sicuro, perché in caso di cattivo tempo, in caso di qualche guaio imprevisto, uno si può togliere dagli impicci. Ecco, Codega, ci faccia un esempio di un'attrezzatura che voi avete studiato e lanciato sul mercato. Ci faccio un esempio: con quali materiali, quanto si risparmia in termini di peso? Sì, diciamo che noi a livello globale abbiamo, diciamo, per quasi tutte le categorie di prodotto che seguiamo, abbiamo il prodotto sostanzialmente uno dei più leggeri del mercato, e quindi andiamo dalle piccozze per le quali si utilizzano leghe di alluminio particolari, fino alla giacca impermeabile e traspirante che utilizza dei tessuti molto molto leggeri e molto compattabili, il che fa sì di, che permette di avere ad esempio una giacca che ti dà un certo grado di protezione, ma che pesa 90 grammi e quando è compattata sta nel palmo di una mano, ad esempio. Ecco, Codega, ma quanto, io non sono avvezzo ad andare in montagna, colpa mia, ma quanto deve pesare una picozza? Perché io non so nulla. Beh, diciamo che una, dipende molto, cioè, qual è la frontiera che si va a fare, però una picozza, diciamo, classica, che mediamente pesa attorno ai 600-700 grammi, noi con questo tipo particolare di materiali siamo riusciti a farla pesare poco più di 200 grammi, quindi con un notevole risparmio di peso. Quindi un terzo rispetto al materiale tradizionale, è così? Esattamente, esattamente. E qua, da questo punto di vista, c'è stata un'innovazione appunto da parte nostra nella ricerca di materiali particolari, per cui abbiamo abbinato una lega di alluminio di derivazione aeronautica, quelle che si utilizzano sui Boeing ad esempio e altri aeroplani, e abbiamo abbinato a un acciaio inossidabile derivato dalle nanotecnologie, che è molto molto più leggero dell'acciaio tradizionale, ma che ha le stesse caratteristiche, ecco, di resistenza. Ernesto da Brescia ci chiede se anche voi producete in Cina. Noi abbiamo, tengo a precisare che intanto la testa pensante, appunto, quindi il centro ricerca e sviluppo è qua in Italia. Abbiamo delle tra l'altro è in montagna. Esattamente, noi viviamo in montagna perché abbiamo la passione per la montagna, produciamo prodotti che noi stessi andiamo a utilizzare e ci piace utilizzare. Tornando al discorso produzione, noi abbiamo delle produzioni in particolare per i prodotti più di nicchia, quelli che tecnologicamente un po' più particolari, come le picozze, i ramponi, i chiodi da ghiaccio e cose di questo tipo, abbiamo la produzione sempre in Italia, qui a Premana. Per altre tipologie di prodotto, quelle più, diciamo, outdoor, e invece abbiamo anche delle produzioni delocalizzate, e in questo caso anche in Cina. Ecco, ma è vero che avete iniziato con i campanacci? Ho letto qualcosa sulla storia. È una dei mestieri che i nostri predecessori avevano iniziato a fare, e che noi parzialmente continuiamo ancora, anche se poi il nostro core business rimane quello della. Quindi, della montagna, Codega, dai campanacci per le mucche, alle prime picozze, ai materiali di derivazione aeronautica in qualche modo riadattati dalla Boeing, tutto questo attraverso un'attenzione spasmodica alla ricerca. So che voi avete rapporti molto stretti, addirittura un accordo quadro con il Politecnico di Lecco. Qui in studio c'è il prorettore Riccardo Pretravissa, il prorettore del Politecnico di Milano, sì, per la sede di Lecco, che forse lei conoscerà. Ci spiega allora questa ricerca in che cosa consiste, e questo rapporto con l'università, col Politecnico, in che cosa consiste? Sì, diciamo che noi, essendo una piccola realtà, effettivamente non possiamo attingere a una ricerca di base, perché questa non è il nostro scopo, nel senso che questa, come diceva proprio il professor Pietrabrissa prima, la ricerca è tipicamente pubblica. La nostra collaborazione con il Politecnico sta nel fatto che attraverso delle conoscenze delle diverse facoltà, delle diverse tecnicità all'interno del Politecnico, noi possiamo attingere a delle conoscenze, del know-how. E del know-how che non possiamo avere al nostro interno, per cui abbiamo attivato questo tipo di collaborazione che permette appunto di avere degli scambi a livello di ricerca sui materiali. Abbiamo sviluppato anche dei prodotti in collaborazione con il Politecnico. Per esempio? Ad esempio un casco d'alpinismo. Diciamo che il primo casco di alpinismo di concezione moderna, diciamo così, non la classica padella che si mette in testa, ma il casco con forma aerodinamica, un po' più, diciamo, che ha segnato il passo della nuova generazione dei caschi, è stato realizzato appunto da Campo in collaborazione col Politecnico. Al, alcuni studenti delle facoltà hanno fatto degli stage presso la nostra azienda, per cui ecco, c'è questo tipo di rapporto con il mondo della ricerca che per noi è molto molto importante. Professor Pietrabissi, allora la ricerca è aperta anche alle piccole imprese? Deve essere aperta anche alle piccole imprese, è il nostro tessuto industriale principale. Nova Lab 24. Nova Lab 24. È ufficiale, anche Microsoft avrà il suo tablet. Si chiamerà Courier e sarà un mini computer con due touchscreen che si aprono come un libro. La casa di Redmond ha confermato questa mattina la notizia del prototipo trapelata ieri sul sito Gizmodo. In attesa dell'ormai mitologico quanto misterioso iTablet di Apple, la febbre del tablet sembra aver contagiato tutta l'elettronica di consumo. Twitter e Spot marcia indietro. Il sito di microblogging non ospiterà inserzioni pubblicitarie, almeno nell'immediato. Lo ha detto il cofondatore della società Bitstone. Il sito punterà su nuovi servizi a pagamento per le utenze commerciali, sviluppando sistemi che permettono alle aziende di monitorare e ottenere dati sui loro contatti. Intel prevede una seconda vita per i PC. L'amministratore delegato Paul Otellini è convinto che le vendite di personal computer arriveranno, come minimo, ai livelli di quelle del 2008. Nella futura crescita di Intel, per Otellini, saranno cruciali però anche cellulari, software e i cosiddetti chip inseriti. Prossima stazione, iPhone. Trenitalia ha reso disponibile nell'App Store di Apple un'applicazione gratuita che permette di acquistare biglietti, effettuare prenotazioni e consultare orari e prezzi anche con comandi vocali. L'India ha la conquista dello spazio. È avvenuto oggi con successo il lancio di OceanSat 2, il 16° satellite indiano, insieme a 6 nanosatelliti europei. I lanci sono avvenuti intorno a mezzogiorno ora locale. Dei satelliti europei, 4 provengono dalla Germania, 1 dalla Svizzera e 1 dalla Turchia. Insomma, le notizie sulle scarpe funzionano, cioè non c'è niente da fare. Cioè, quando si parla di tecnologie, di innovazione, ma ricordo che di tecnologie e di innovazione parleremo anche domani, anzi scriviamo domani su Nova, che esce in edicola con il Sole 24 Ore. Vero Pierangelo? Sì, parliamo di matematica e successo, cosa che forse tu Luca non hai, di cui tu Luca non hai bisogno, perché mi sembra che la trasmissione vada benissimo, ma noi parliamo di musiche, di un programma che sostanzialmente scannerizza i file musicali, per cui tutti possono sottoporre la propria musica, la propria canzone e capire se potrà essere un successo o meno. Ecco, Pierangelo Soldavini, vice caporedattore di Nova, ha il fiatone perché è corso giù dalle scale, per cui non ha un motivo. È tutto in diretta splendidamente, e questa è una macchina che decide o sa che cosa, quale musica avrà successo. Sulla base lei, di tutti i successi del passato, capisce i ritmi, le note. E noi l'abbiamo provata, l'abbiamo testata, l'abbiamo spiegata. Provata, abbiamo cercato di trarla in inganno, perché gli abbiamo sottoposto dei successi del passato e sono passati delle musiche di qualche collega che ha sperimentato la cosa e gli ha detto di riprovare la prossima volta. È andata insomma benissimo. E una poi abbiamo Soldavini, saranno inutili i programmi televisivi di successo che lanciano i nuovi cantanti, ci penserà l'informatica. Ci penserà la matematica, hai capito? Matematica. C'è l'algoritmo apposito. Abbiamo fregato X Factor, lo possiamo X-Factor dire. X Factor sta tremando più, in questo momento. E poi abbiamo i Mammut, sì, perché parlando di musica, noi Nova inizia questa settimana un viaggio all'interno della nuova musica, o quantomeno dei nuovi modi di utilizzare internet per distribuire, per fare musica, con un giovane gruppo italiano che sono i Mammut e che proseguirà nelle prossime settimane con tutta una serie di gruppi anche internazionali, tutto più o merito, meno noti. Tutto merito di Mauro Garofalo, che seguirà questa inchiesta sulle nostre pagine da qui fino a quando li esaurisce i gruppi, insomma. Sì, sono diversi gruppi, ha girato un po' tutta l'Europa. E domani continuiamo a parlare di continuiamo, domani appuntamento alle 16 si torna a parlare di creatività. Io saluto Sandro Mangiaterra, Pierangelo Soldavini, Vibram, Politecnico di Milano. Grazie a Pietrabissa e a Zuccala e a tutti gli ascoltatori. A risentirci.